attenti alle regole e alle esigenze di fondo del sistema democratico. Ed è questa, naturalmente, è la cosa più penosa. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento è confermato per... Confermate le repliche, mercoledì notte dopo l'ultima edizione delle notizie, confermati i testi sul sito www.radiopopolare.it/, la volta scorsa me l'ho dimenticato il .it, ma sicuramente ci siete arrivati lo stesso, a domenica prossima.